Il 5 corrisponde alla lettera T, mentre il 10 corrisponde alle lettere ES. Con queste informazioni sapete decifrare la direzione da prendere.